Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come promesso, avremo un approfondimento anche sul bilancio, l'andamento del nostro trasporto aereo, gli aeroporti, la concorrenza interna. L'abbiamo fatto 2 settimane fa ricordando un anno della nuova Alitalia. Adesso sarà la volta di due dei principali scali italiani, o meglio due scali che da soli hanno la maggior parte dell'intero traffico passeggeri. Mi riferisco alla SEA, Società Aeroporti di Milano, quindi Malpensa e Linate, e ADR, l'aeroporto di Roma, quindi Fiumicino e Ciampino, ma anche la concorrenza possibile nel traffico aereo. Perché ne parliamo? Perché nel fine settimana sono uscite, e anche oggi, diverse analisi sull'andamento del traffico passeggeri, e perché il prossimo 4-5 settembre, magari settembre, febbraio, ci sarà un'importante conferenza sul trasporto portuale, aeroportuale a Trieste, organizzata dal Ministero degli Esteri. In ballo non c'è solo il Corridoio 5, ma tutto lo snodo aeroportuale di quella che spesso viene chiamata la Piattaforma Italia. In realtà poi servono anche gli investimenti. In questa giornata parleremo anche dei dati auto, perché usciranno le 18 le immatricolazioni italiane a gennaio. Sono già uscite quelle francesi molto buone, più 14% a gennaio 2010, però Fiat ha registrato un calo delle immatricolazioni del 14,8%, e il solo marchio Fiat ha fatto un meno 13% in Francia, a fronte di un mercato che ha fatto un più 14%. E parleremo anche degli Stati Uniti, perché è iniziata la presentazione della legge finanziaria, che non si chiama così in America, si chiama il budget, da parte del presidente Barack Obama. Sarà una finanziaria da 3.800 miliardi di dollari, anche perché il deficit americano quest'anno toccherà la cifra record di 1.600 miliardi di dollari, prevederà entrate per 800 miliardi, una finanziaria dimensioni enormi, con l'aumento delle tasse, del carico fiscale per chi guadagna più di 250 mila dollari l'anno, e poi una tassa sulle banche che hanno beneficiato degli aiuti statali, ne abbiamo già parlato. In questa ottica parleremo anche dei dati che avete letto nel fine settimana, a rielaborazione dell'Agenzia delle Entrate su quanti italiani guadagnano più di 150 mila euro lordi l'anno, e siamo allo 0,3% della popolazione, di cui l'80% di questi, in realtà, se andiamo a sopra 200.000 euro lordi stiamo parlando di 120.000 persone, ma insomma l'80% di questo 0,3% sono pensionati o lavoratori dipendenti, manager dipendenti. Solo un quinto di questa percentuale riguarda i lavoratori autonomi. E parleremo anche del potere d'acquisto, perché avremo ospite il presidente dell'Istat. L'Istat ha elaborato anche un insieme di valori su come è calato il potere d'acquisto in Italia negli ultimi anni, e anche perché è calato in questo modo. 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre parleremo anche di borsa, e allora partiamo con le notizie in breve proprio dall'andamento dei mercati. Che è un andamento buono, mezzo punto percentuale in media rialzo in Europa, Parigi appunto mezzo punto percentuale, Londra un punto percentuale di rialzo, Francoforte più 0,70, Milano più 0,5, molto bene Banco Popolare più 4,3, CIR più 3,2, Media 7 più 2%, Unicredit più 1,8, Estima Electronics più 1,6, come la Popolare di Milano, Intesa più 1,3, Atlantia più 1%, in recupero anche un mezzo punto percentuale. Nel bancario invece cede Ubibank allo 0,8%, Fiat è in flessione di mezzo punto, Telecom anche, il peggior titolo è Tenaris meno 3%, poi Bulgari meno 2,1, anche Mediobanca perde un punto percentuale. Già volete sapere al 349-238-6666 di Unicredito, avete ragione, è tornata sopra i 2 euro per azione, è in rialzo dell'1,6% a 2,05 euro. L'euro a quota 1,39 nei confronti del dollaro, quindi sempre relativamente debole. A chi ci chiede dell'audizione, della prima comparizione oggi in Tribunale Milano di Consorte, vicenda scalata BNL, avremo anche un piccolo approfondimento su questo. Ancora due notizie in breve. La Toyota ha annunciato i dettagli del piano per risolvere i problemi al pedale dell'acceleratore, quello che ha costretto a richiamare 2.300.000 vetture Toyota in America e 1.800.000 vetture in Europa. Praticamente sarà inserita una barra d'acciaio capace di far tornare correttamente il pedale nella sua posizione quando non premuto. Non è un dettaglio. Devo dire che oggi anche il gruppo francese Peugeot ha annunciato un richiamo preventivo di 97.000 vetture, di cui 24.000 circolano in Italia, e si tratta dei modelli Peugeot 107 e Citroën C1, perché sono prodotte in comune con la Toyota e quindi si teme, o meglio si sa, che hanno avuto lo stesso problema. Volete sapere di Eni? Come altri titoli che non abbiamo citato, è poco mossa, più 0,1%, così come Enel, invariate, anche Fondiari e Autogrill sono invariate. Ancora vedo altri messaggi sullo stipendio di Lloyd Blankfein, numero uno di Goldman Sachs, smentito oggi dal portavoce di Goldman Sachs, la notizia del Financial Times, per cui avrebbe un bonus da 100 milioni di dollari. La Russia invece oggi fornisce un dato sull'andamento dell'economia nel 2009, il PIL è crollato dell'8%, non si vedeva dal 1994 un calo così forte. Scatta da oggi la moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà, se ne è già occupata questa mattina Deborah Rosciani con Salvador Danaio. Torneremo sul tema nella seconda ora, quando parleremo di potere d'acquisto delle famiglie, redditi, dichiarazione dei redditi. Adesso vorrei parlare del traffico aereo italiano e di come vanno le società quotate, ma anche le non quotate, alla luce di alcuni dati usciti, visto che due settimane fa avevamo promesso il tema quando facemmo il bilancio del primo anno di CAI in Alitalia. Adesso potremmo fare anche il bilancio per quello che riguarda Malpensa di un primo anno praticamente senza l'Italia o con l'Italia molto ridotta. Sono uscite infatti diverse notizie. Secondo quello che ha detto ieri il numero uno, il direttore generale della IATA, Giovanni Bisignani, la IATA riunisce le principali compagnie aeree italiane, l'industria del trasporto aereo avrà bisogno di almeno 3 anni per recuperare quanto perso l'anno scorso nella peggiore recessione degli ultimi 60 anni. Pensate che su 50 miliardi di perdite che a livello mondiale ha accumulato in 10 anni l'industria del trasporto aereo, ben 11 si sono accumulate solo nel 2009. E secondo Bisignani altre compagnie aeree falliranno dopo le 34 che a livello mondiale sono già uscite dal mercato dal 2008 al 2009, a fine 2009. Migliore, quindi più positivo invece l'analisi che oggi ha fornito Morgan Stanley, che ha detto il peggio per le compagnie aeree sarebbe alle spalle. Nel 2010 crescerà il traffico di un 3-4% e per le low cost sarà un vero e proprio boom, più 10%. E allora parliamone con due ospiti che da soli rappresentano quasi la metà di tutto il traffico aereo italiano. Su 112 milioni di passeggeri che volano in Italia ogni anno, infatti Malpensa e Fiumicino assieme fanno 54 milioni, 20 milioni Malpensa e 34 milioni Fiumicino. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Assa Aeroporti e Aeroporti di Roma, Fabrizio Palenzona. Buonasera a tutti. Nei nostri studi c'è il presidente della SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti milanesi, Malpensa e Linate, Giuseppe Bonomi, buonasera anche a lei. Buonasera. E grazie anche al comandante Giuseppe Gentile, che è presidente e amministratore delegato di Air Italy, una compagnia di cui molto si è parlato quando sembrava che Ryanair dovesse mollare la presa sull'Italia. Grazie anche a lei, comandante. Buonasera. Allora, presidente Palenzona, a Trieste, tra l'altro, dal giovedì, quindi dal 4-5 febbraio, vi sarà un convegno internazionale, lo Spazio Mediterraneo della Mobilità, è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dall'Osservatorio per il Mediterraneo. Insomma, si discuterà molto di mobilità e di infrastrutture. Però vorrei un primo commento sui dati che ho appena ricordato. siete più dell'idea di Bisignani che ci vorranno 3 anni, oppure insomma più il bicchiere mezzo pieno che mostra oggi Morgan Stanley? Presidente Palenzone. Allora, io credo che sul piano globale ci vorranno i 3 anni che dice Bisignani. La situazione italiana, purtroppo, partendo da un dato più basso sulla mobilità aerea ed avendo una grande capacità attrattiva per quanto riguarda, diciamo così, i nuovi mercati dell'Estremo Oriente, ha una capacità di recupero o di minor difficoltà rispetto ad altri mercati. Quindi io credo che ci sia un dato generale che è quello che dice Bisignani, anche perché è più informato di tutti, ma in Italia siamo un po' più ottimisti, ma il nostro ottimismo dipende dal fatto che partiamo più dal basso di altri. Ecco, voi come aeroporti di Roma in questo caso avete avuto un traffico passeggeri che è calato nei primi 10 mesi del 2009, Leonardo da Vinci ha fatto un meno 6%, sì, complessivamente un meno 5%, il risultato netto comunque è positivo, 4 miliardi e 2, c'è chi dice anche grazie ai crediti incassati dall'Italia. No. L'Italia è un danno netto, non parlo ovviamente di CAI che è appena arrivata, parlo della vecchia Alitalia. Per cui noi, non solo noi, ma più di tutti noi, perché siamo in questo caso i più danneggiati, abbiamo avuto un danno notevolissimo di soldi che aspettiamo dall'amministrazione straordinaria, ma che sappiamo già che non arriveranno. Per cui sulla la parte, diciamo, della cosiddetta bad company di Alitalia si sta riferendo. Certo. Ecco, le vostre previsioni anche come piano industriale per l'anno in corso, poi faremo la stessa domanda chiaramente anche al Presidente Bonomi, perché abbiamo visto molta polemica, poi ne parleremo anche nel numero di Ryanair o Liri sulla presenza o meno in Italia, lì c'era più una controversia con l'ENAC di Vitoriggio, abbiamo visto Lufthansa dire noi sulla rotta Malpensa-Roma molliamo il colpo perché tanto lì c'è una situazione di fatto quasi di monopolio. Sviluppi possibili, Presidente? Ma noi, per quanto riguarda il discorso di Fiumicino, ripeto, abbiamo una forte capacità di recupero e vediamo già segnali significativi di ripresa del traffico, ma più in generale io credo che il sistema Italia debba ragionare sempre di più, come stiamo facendo, di servizio del Mediterraneo, perché lo sviluppo del trasporto aereo ci sarà, noi auspichiamo che l'Alitalia si consolidi sempre di più, ma certamente noi abbiamo una grande prospettiva, perché quando le cose ritorneranno e stanno ritornando, diciamo anche fra 3 anni a regime, le grandi hub del nord sono completamente intasate, non hanno capacità di sviluppo, mentre sia Fiumicino che Malpensa hanno ancora una grande potenzialità e quindi una grande potenzialità di servizio per tutto il nuovo traffico che arriverà. C'è un asse Roma-Milano su Malpensa-Fiumicino? Ma noi stiamo ragionando in termini di politica di sviluppo del trasporto aereo, naturalmente ognuno con le sue peculiarità, ma sapendo che se siamo capaci di dare una buona offerta infrastrutturale, certamente il traffico lo attireremo sulle nostre infrastrutture. Mi scusi, Presidente Palenzone, poi adesso sentiamo anche Bonomi, ma se è chiaro che Malpensa su Roma qualche difficoltà ce l'ha, cioè la decisione di Alitalia andava in questo senso, e anche Lufthansa, l'accordo, diciamo, questo asse, questa sinergia con Malpensa, tra Malpensa e Fiumicino, dove potrebbe poi dispiegarsi? Mi scusi, noi giochiamo per lo sviluppo. Certamente a livello nord esiste un problema, credo che il Presidente Bonomi ce lo insegni a tutti. Lo sviluppo disordinato di aeroporti e la non focalizzazione su certe determinate scelte ha creato questi disagi. Nel senso che il potenziale, il bacino potenziale del nord è un bacino dei più ampi e dei più importanti d'Europa, ma avrebbe dovuto avere uno sviluppo organico, e cioè bisognava che Linate fosse un aeroporto, diciamo così, city airport, che Malpensa sia, debba essere collegato in modo efficiente, oggi nel mondo in 10 minuti Milano centro Malpensa sono più che sufficienti, e a quel punto c'è uno sviluppo ordinato. Se invece si continua a fare confusione, a fare un aeroporto nei 50 chilometri, è ovvio che le hub non possono crescere. Presidente Bonomi, allora, visto che venite chiamati in causa, lei come se lo immagina questo rafforzamento del rapporto tra Malpensa e Fiumicino? Ma un rafforzamento è nelle cose perché c'è un forte minimo comune denominatore. Entrambe le società di gestione lavorano per non essere accomunati, come ricordava il presidente Palenzona, nel problema della cosiddetta capacity crunch nel prossimo decennio, cioè lavorano per incrementare la loro capacità di ricezione. Abbiamo presentato insieme, non casualmente, i nostri piani di investimento infrastrutturale, perché sono entrambi piani totalmente autofinanziati. Per essere totalmente autofinanziati e per consentirci di recuperare un gap infrastrutturale, occorre poter contare su regole certe, chiare, definite e possibilmente non mutabili nel giro di poco tempo. Abbiamo fatto questo, io credo che abbiamo davanti un percorso di sviluppo. Ricordava il presidente Falenzona che nel nostro paese in buona sostanza si vola meno che in altri paesi. Questo può rappresentare al momento una situazione di inferiorità, per così dire, del mercato italiano, ma al contrario in qualche modo fa individuare come ci siano forti margini di crescita del nostro mercato e quindi colloca il nostro mercato tra quelli principalmente attrattivi in Europa. Andiamo sul concreto. Prima lei, Presidente Bonomi, poi Presidente Palenzona, quando voi ricordate, citate gli investimenti infrastrutturali decisi, diciamo, congiuntamente, concretamente a cosa ci riferiamo? Visto che tra l'altro da ieri, per esempio, visto che Palenzona si riferiva ai collegamenti, c'è il nuovo servizio Malpensa Express che comunque porta 29 minuti invece che 40 il collegamento con Cadorna. Ma insomma, gli investimenti che avete deciso, non dico di fare assieme, ma di fare in maniera complementare per quello che riguarda Malpensa, no, quali sono? Ecco, anche per chiarire a livello di informazione, sono due piani di investimento distinti. Certo, certo. Cioè, noi ovviamente abbiamo predisposto il piano di investimento infrastrutturale che riguarda Malpensa e Linate e aeroporti di Roma per quanto riguarda Fiumicino e Ciampino. Quando parliamo di investimenti parliamo di infrastrutture e strutture che noi andremo a realizzare sui sedimi aeroportuali. Quindi ciò che è di nostra stretta competenza. Il cenno a cui lei faceva, il collegamento via ferro tra Milano e Malpensa, invece attiene, io credo, a quella che è una responsabilità complessiva del sistema, che è quella di recuperare proprio sulla mobilità di superficie un gap infrastrutturale che in realtà interessa gli aeroporti, ma non solo gli aeroporti. La realizzazione in altri termini di strade e ferrovie, il miglioramento, la riqualificazione dei tracciati, io credo che vada nella giusta direzione di porre il sistema territoriale, certo, in condizione di competere, non solo gli aeroporti. Però per quello che riguarda gli investimenti strettamente di vostra pertinenza? Ma guardi, noi abbiamo due problemi, gli aeroporti hanno in generale due temi in ordine alla capacità. La capacità di accogliere persone e quindi la capacità dei terminal e la capacità di accogliere movimenti aerei. Noi ci stiamo sforzando, abbiamo elaborato un piano che per quanto riguarda il numero dei movimenti aerei prevede la realizzazione di raccordi, in parte già in corso di esecuzione, in parte già realizzati, prevede la realizzazione entro diciamo il termine dell'Expo a Milano della terza pista, questo proprio per far crescere il numero di movimenti che ogni ora possono essere operati su Malpensa. E poi c'è la capacità complessiva dei terminal. Noi stiamo proseguendo nella realizzazione e nell'ultimazione della cosiddetta terza parte del Terminal 1. Con la realizzazione di questa terza parte, anch'essa pianificata entro la data di svolgimento dell'Expo, noi raggiungeremo una capacità complessiva solo su Malpensa in termini di ricezione di passeggeri di circa 40 milioni di passeggeri. Molti ci imputano che stiamo ragionando un po' fuori termine, per così dire. vista la situazione complessiva del comparto del trasporto aereo, nel 2009 il trend in Europa è stato disarmante, cioè un meno 8% complessivo in termini di volume di traffico passeggeri, addirittura un meno 20% in termini di trasporto delle merci. Però dobbiamo al contrario sforzarci di pianificare, di programmare e poi di realizzare gli investimenti per essere pronti e competitivi nel momento, certo, in cui il mercato riprenderà a crescere. Io credo che davvero stiamo provando a fare quello che ogni impresa sana dovrebbe fare, cioè pianificare e realizzare investimenti anche in un momento di difficoltà dei mercati. Poi tornerò da lei, Presidente Bonomi, perché mi interessa anche capire che cosa, come è andato questo anno, tra virgolette, senza l'Italia, e che cosa succederà con altri accordi, Cathay Pacific, piuttosto che Emirates, Lufthansa. Però, Presidente Palenzona, anche per lei si può dirci concretamente dove si stanno dirigendo gli investimenti previsti nel piano industriale, per quello che è di competenza e di pertinenza dell'aeroporto di Roma? Quanto ha detto il nostro amico Bonomi per noi vale moltiplicato 10, non come numero di investimenti ma come intasamento della struttura esistente, nel senso che nei mesi scorsi e negli anni scorsi abbiamo visto cosa significa l'aumento di traffico in una struttura sostanzialmente già inferiore alla capacità attuale. La crisi ci ha dato un po' di respiro e noi dobbiamo investire nell'attuale aerostazione per poterla rendere adeguata a servire il traffico attuale e atteso nei prossimi anni e quindi portare la capacità attuale di Fiumicino che conosciamo dagli attuali 32-33 milioni ai 45 milioni di passeggeri e dall'altra parte iniziare e quindi realizzare entro il 2020 un nuovo terminal, una nuova aerostazione sempre a Fiumicino, cosiddetta Fiumicino Nord, che noi preferiamo chiamare Aeroporto Italia, perché sarà l'unica grande nuova infrastruttura aeroportuale che ci sarà in Europa nei prossimi 10 anni e che dovrebbe essere il primo modulo di un nuovo, diciamo, infrastruttura che parte da 25 milioni di passeggeri in più aggiuntivi per arrivare ai 60 milioni e quindi portare il complesso dell'aerostazione di Fiumicino a 110 milioni di passeggeri. Allora, Presidente Palenzone, anche Presidente Bonomi e chiaramente anche Presidente Gentile, vorrei capire poi anche cosa si spera che esca dal convegno del 4-5 a Trieste e poi appunto fare il calcolo dei danni, delle opportunità di concorrenza interna, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, concorrenza nelle rotte nazionali dopo il meteo e la pubblicità. La borsa intanto ha chiuso con mezzo punto percentuale di rialzo, poco mossa rispetto all'ultimo aggiornamento. Il miglior titolo è Banco Popolare più 4,3, il peggiore Tenaris meno 2,7%. Ci dite che non abbiamo dato il prezzo del petrolio, è a $73 al barile. ...17.34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco commenteremo anche la borsa, ripeto, mezzo punto percentuale di rialzo, bene l'America più un punto percentuale. Vorrei concludere questo approfondimento con chi rappresenta appunto la maggior parte del traffico aereo in Italia quanto a gestione, quindi gli aeroporti di Roma e gli aeroporti di Milano. Presidente Palenzona, per concludere, che cosa spera che esca dall'appuntamento di Trieste, qua giovedì 4 e venerdì 5 febbraio, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla rappresentanza a Milano della Commissione Europea sullo spazio mediterraneo della mobilità, quindi porti e aeroporti, perché molto si dice di piattaforma, ma poi vorremmo vedere anche operazioni concrete. Prego. Ma nella mia tradizione personale credo che si debba uscire dalla chiacchiera e arrivare alla proposta e credo che quindi ci saranno a Trieste proposte concrete per diventare finalmente in modo operativo, far diventare l'Italia quello che tutti hanno detto, e cioè la piattaforma logistica del Mediterraneo. Tutti i presidenti del Consiglio di prima e di oggi dicono questa cosa, i nuovi traffici che passano nel Mediterraneo, bla bla bla, però un investimento serio dal punto di vista portuale per i porti e gli investimenti seri che stiamo attrezzando per gli aeroporti, se decolleranno come io mi auguro, sono una risposta concreta, efficiente, al problema di mettere al centro l'Italia nel sistema dei traffici del Mediterraneo. Grazie, in bocca al lupo al Presidente degli Aeroporti di Roma e di anche di Assi Aeroporti, Fabrizio Palenzona. Presidente Bonomi, veniamo invece ai casi specifici di Malpensa, perché di Nate parliamo molto poco. Dunque, voi avete avuto dei, l'abbiamo detto più volte, un danno, insomma, oggettivo. Poi, insomma, l'Italia ha fatto delle scelte che dal punto di vista del piano industriale erano abbastanza ineccepibili. Comunque, voi siete passati da 1238 voli settimanali ad aprile 2008 a 139 voli nel ottobre del 2009. E i dati già li citavo io, comunque tra aprile e dicembre c'è stato anche un aumento del traffico passeggeri del 3% su Malpensa, che è stata l'unica variazione positiva, se non ricordo male, dei principali scali aeroportuali in Europa, quindi un dato anche buono, con 19 milioni di passeggeri in transito, comunque siete sotto di un 9%. Ecco, per dare comunque un'idea del danno, mettiamolo così, comunque del ridimensionamento, prima che Alitalia tagliasse la maggior parte delle sue rotte da Malpensa, i passeggeri erano 24-25 milioni. Quindi 23 milioni e 7 per l'esattezza. 24 milioni, ne mancano ancora 5 all'appello. Due notizie, una buona e una meno buona. Lufthansa, che ha annunciato un paio di settimane fa che avrebbe ridotto, eliminato di fatto, la rotta Malpensa-Roma perché non era competitiva con la rotta in mano all'Italia Air One, e però ha detto forse aumenteremo la nostra presenza. Dall'altro però abbiamo visto Cathay Pacific che aprirà da marzo un collegamento Malpensa-Hong Kong, EasyJet da febbraio porterà da 5-17 gli aerei basati su Malpensa con un 35% di aumento del traffico passeggeri l'anno scorso, e nuovi voli, se ho ben capito, anche da parte di Saudi Arabian Airlines, Emirates, Azerbaijan, Tunisia, Royal Jordan, insomma. Fermo restando che EasyJet ormai è diventata la prima per quota di mercato a Malpensa con il 27%, poi c'è Lufthansa 13% e l'Italia 9%. Basteranno tutti questi accordi di queste compagnie per arrivare, diciamo, entro il 2010-2011 a un completo riequilibrio delle quote che avete perso con l'Italia? Beh, guardi, la sua domanda ovviamente è molto articolata e imporrebbe una riflessione altrettanto articolata, però io mi limiterei a dire questo: noi abbiamo elaborato immediatamente a valle del cosiddetto de-hubbing di Alitalia un nuovo piano industriale assolutamente discontinuo, che introduceva elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente. Abbiamo cominciato ad attuarlo. In quel piano noi avevamo detto entro 3 anni recupereremo i volumi di traffico passeggeri che abbiamo perso per via del de-hubbing di Alitalia. Lei ha parlato della crisi, dell'elemento di forte criticità che noi abbiamo attraversato col de-hubbing di Alitalia, però va aggiunto a questo elemento di criticità che riguardava noi e solo noi un secondo elemento che invece ha riguardato e riguarda tutto il comparto del trasporto aereo, ovvero gli impatti che la crisi economica ha generato sul trasporto aereo. Le citavo prima, un meno 8% di media nel traffico passeggeri in Europa non si è mai avuto neanche nelle stagioni, durante i cicli così negativi, ad esempio l'ultimo, quello avvenuto dopo il 2001. E questa è una crisi molto più strutturale rispetto che in passato. Allora è evidente che questo secondo elemento di criticità ci ha imposto una rimodulazione del piano. Noi abbiamo mantenuto salda l'impostazione del piano industriale che ci ha portato a un modello industriale molto più equilibrato e più bilanciato che in passato, adesso dirò due parole in proposito, ma abbiamo dovuto rimodulare i tempi. Noi siamo convinti, anche forti delle buone performance in parte da lei ricordate prima, che hanno riguardato soprattutto gli ultimi 9 mesi del 2009, siamo convinti di poter recuperare celermente, ma soprattutto siamo convinti di non dover rinunciare all'opzione strategica prioritaria che ci eravamo dati 2 anni fa, cioè quella di riportare Malpensa a ruolo di grande aeroporto hub, cioè a ruolo dove il traffico di breve e medio raggio possa alimentare il traffico di lungo raggio. Solo 2 considerazioni ulteriori. Le accennavo a un modello più equilibrato e bilanciato rispetto che al passato. Prima il sistema aeroportuale milanese si basava, direi in maniera assolutamente prevalente, sulla presenza di un unico cliente che si chiamava Alitalia e che riguardava più dei 2/3 del traffico gestito dagli aeroporti milanesi. Oggi abbiamo, se non altro, pur in presenza di una contrazione di traffico derivante da quei due elementi negativi di cui parlavo, siamo in presenza di un modello più equilibrato. Abbiamo tre terminal passeggeri, perché dobbiamo sempre ricordare che su Malpensa esistono due terminal differenti, con accessi differenziati, con servizi altrettanto differenziati, e a Linate c'è ovviamente il terminal passeggeri, oltre che il terminal dell'aviazione generale, ma che in questo momento non consideriamo nella nostra analisi. Ebbene, su ognuno di questi tre terminal noi sviluppiamo un traffico differenziato e abbiamo anche, diciamo, delle presenze differenziate dei vettori. Su Linate vi è ancora una presenza prevalente di Alitalia, della nuova Alitalia. Il Terminal 2 è ormai divenuto a tutti gli effetti un grande terminal low cost, la prima base continentale di EasyJet in Europa, che è solo nel 2009 è stato sviluppato esclusivamente sul Terminal 2 un traffico di 5 milioni di passeggeri. Sul Terminal 1 vi è una presenza di più vettori importanti, con importanti piani di investimento. Certo, lei ricordava Lufthansa, perché Lufthansa e Lufthansa Italia rappresenta forse la vera novità nel panorama del trasporto aereo italiano dell'ultimo anno e mezzo, ma vi sono anche altri vettori che sviluppano un traffico altrettanto considerevole, anche sul tanto richiamato lungo raggio, perché Malpensa ancora oggi consente, proprio per effetto di investimenti mirati di importanti vettori nel mondo, di raggiungere molte destinazioni intercontinentali anche con transiti, con traffici di lungo raggio. Ed è il motivo per cui abbiamo invitato Eritrea. Adesso arrivo subito alla domanda per il comandante Giuseppe Gentile. In una battuta però, presidente Bonomi, per concludere, visto che molto si è polemizzato anche sui costi per raggiungere questi aeroporti, al di là del... ma è possibile, così facciamo arrabbiare qualche tassista, che insomma costi 85 euro arrivare a Malpensa in taxi una singola corsa? Ho capito che Malpensa è più distante, nessuno lo mette in discussione, non è una colpa di tassametro. Da Roma centro a Fiumicino, se si sta dentro le mura aureliane, sono 40 euro. Ora, vuol dire, siamo a più del doppio. Allora, vuol dire, anche questo non si riesce a trovare un accordo con... Ma guardi, mi piacerebbe proprio, mi piacerebbe proprio, credo che sia assolutamente auspicabile. Mi pare però di poter ricordare, è argomento degli ultimi giorni, mi sembra, di discussione, che siano rincari importanti previsti anche in altre città italiane. Questo non significa che non si debba trovare un accordo a tutto campo, però lei capisce che la società di gestione aeroportuale è un po' uno spettatore interessato di questa partita. No, io dico, gli altri scali non sono neanche paragonabili: Torino dai 30 ai 50 euro, Firenze 20 euro, Bologna 15 euro. No, io sto parlando di Roma e sto parlando dei grandi scali europei. Ecco, scali europei, insomma, a noi risulta che insomma Londra, per andare a Heathrow, si viaggia sulle 50 sterline e vabbè, e siamo comunque a meno di 85 euro. Parigi però sì, insomma, sono 50-80 euro, Berlino 10-30 euro a seconda che si vada a Tegel o Schönfeld. Comunque, insomma, 85 euro mi sembrano a questo punto un record, un primato poco invidiabile. Non si arrabbino i tassisti, nessuno ha detto che è colpa loro, ma da qualche parte questo problema andrà anche risolto, perché 170 euro per andare e tornare. Però allora, se di record, lei ha ragione, però se di record parliamo, allora parliamo anche di magari di qualche record positivo. Pensiamo ad esempio al lancio recentissimo per effetto dell'ultimazione dei lavori di interramento del tracciato ferroviario di Castellanza, della tratta ferroviaria che collegherà il centro di Milano a Malpensa in meno di 30 minuti, cioè esattamente in 29 minuti. Questo è uno standard di grandissimo livello. Basti considerare, per fare un esempio noto, che da Monaco al centro di Monaco, e le assicuro che la distanza è inferiore rispetto alla distanza tra Malpensa e il centro di Milano, ci si impiegano 31 minuti. No, ma i 29 minuti che sono proprio una notizia di ieri, se non ricordo male, dal 31 gennaio 18 corse, poi arriveranno a giugno 39 corse dirette. Allora, ultima parte di questo approfondimento che dedichiamo al mondo del compagniere e poi arriviamo appunto alla borsa. Abbiamo invitato il comandante Giuseppe Gentile proprio per capire che spazi ci siano anche di concorrenza interna. Perché lo dico? Perché Ritaly è, come già citavamo giunta alle cronache quando si offrì di prendere parte delle rotte che Ryanair voleva abbandonare se fosse uscita dall'Italia. È comunque una compagnia che ha fattura a questo punto 240 milioni di euro, ha avuto una perdita l'anno scorso di 1 milione di euro, ma vola con 12 aerei che cresceranno a 14 in Italia, dall'Italia verso l'estero, quindi nord del Brasile, Cuba, altre località più o meno mene come Mauritius e Fortaleza, ma soprattutto vola da Torino, Verona, Milano, Malpensa, Roma, Olbia, Napoli, Bari e Catania. Così rispondiamo anche a alcuni sms che ci hanno detto occupatevi anche degli altri aeroporti, e se ho ben capito avete intenzione di aumentare anche le rotte nazionali. Domanda molto semplice, comandante Gentile, ma è mai possibile anche con un po' di nazionalismo avere una concorrenza alle low cost italiana? Ma dunque, premesso che Air Italy non è un vettore low cost, bensì un low fare, cerchiamo di fare delle tariffe basse, un buon rapporto prodotto qualità. Il modello low cost è un modello molto diverso dal nostro, noi siamo più un vettore tradizionale, però voglio rispondere alla provocazione di Michael O'Leary che dichiarava di voler uscire dal nostro paese. Sapevo benissimo che era solo una provocazione, perché un mercato come il nostro non lo trova da nessun'altra parte, e soprattutto le condizioni che ha avuto in Italia. E quindi io mi sono offerto di rimpiazzare quelle rotte, anche perché non abbiamo bisogno certo degli irlandesi per fare il trasporto aereo in Italia. Abbiamo il know-how, abbiamo i mezzi, abbiamo la professionalità, abbiamo i capitali, e quindi possiamo essere sicuramente autonomi. Non siamo secondi a nessuno in questo settore. Però, come abbiamo visto, ben si è guardato O'Leary di lasciare questi aeroporti, ma alle condizioni di O'Leary, ovvero con tutti i finanziamenti che prende dai vari aeroporti, se non erro mi pare che riceva circa 8 euro a passeggero da quasi tutti gli aeroporti come contributo pubblicitario, ma a queste condizioni noi entriamo domani. Quindi dice c'è anche una condizione di vantaggio che O'Leary è riuscito, gli ha dato atto, a ottenere in vari scali che hanno preferito pagare qualcosa pur di avere tutto il movimento passeggeri. Questo non è che gli scali facciano beneficenza. Certamente, però appunto dico, con queste condizioni anche noi saremmo in grado, certo, di offrire gli stessi servizi e forse nel complessivo le stesse tariffe. Anche voi volete puntare comunque su, e questo è il motivo per cui ci interessate, che al di là del Malpensa Fiumicino, voi avete, se ho ben capito, una strategia, se ce la può raccontare brevemente, di puntare sul traffico aereo nazionale, però non usando la rotta Milano-Roma, che anche voi ritenete abbastanza difficile sul traffico nazionale. Beh, oggi il Malpensa-Roma è un po' difficile, perché ci sono già abbastanza voli sia di EasyJet che di Alitalia, e del resto noi non abbiamo slots da Linate per poterli convertire sulla Linate Roma, perché ci sono alcuni vettori che gridano al monopolio e hanno diversi slots disponibili, potrebbero convertire questi slots da altre destinazioni a Linate Roma, e quindi fare concorrenza ad Alitalia o quant'altro. Quindi noi ci stiamo concentrando più sugli aeroporti periferici. Abbiamo aperto una base a Verona, una base a Napoli, stiamo adesso considerando di aprire una base a Roma, proprio per effettuare nuovi voli come il Roma-Torino e il Genova-Napoli, rafforzare il Napoli-Torino e il Roma-Verona, e quindi allargare la nostra capacità domestica. Bene, in bocca al lupo agli altri due ospiti, quindi a Malpensa, perché noi insomma tifiamo per tutti gli aeroporti italiani, non abbiamo delle preferenze personali, abitando diciamo, magari più vicino a Linate che a Malpensa, però non abbiamo nessuna preferenza diciamo ideologica. E in bocca al lupo al presidente della SEA Giuseppe Bonomi e anche al comandante Giuseppe Gentile, perché più concorrenti vediamo sul panorama, siamo dei liberisti convinti, e maggiore concorrenza c'è, non ce ne abbiano all'Alitalia, ci mancherebbe, più concorrenza c'è meglio immaginiamo che staremo come clienti. Grazie a M2. Grazie. Allora, ripeto, i tassisti, nessuno ce l'ha con i tassisti, ci mancherebbe, sono tariffe, però insomma che la tariffa sia alta e anticompetitiva per molti versi è un dato di fatto. Parliamo adesso di borsa e allora, come sempre con Radio Cori, sulle 24 ore, Andrea Fontana, un po' slittato in là oggi l'appuntamento, ma abbiamo molti ospiti. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Mezzo punto percentuale di rialzo su Milano, lo 0,6 su Parigi, lo 0,80 su Francoforte. E Londra guadagna l'1,1%, l'America guadagna lo 0,80%, l'euro a quota 1,39, vicino a quota 1,38,9. Buono recupero dei bancari, Popolare più 4,1%, Unicredit più 1,8%, Popolare Milano più 1,5%, Intesa più 1,5%, e poi mi sembra che non manchi altro, Unipol più 0,90%. Non così bene per UbiBanca, meno 0,40%. I bancari, poi Fiat ancora in calo, meno 1% a 9 euro per azione, quando mancano pochi minuti alla diffusione delle immatricolazioni. Sì, per quanto riguarda i bancari è stata una performance positiva e di recupero che già si era evidenziata in parte venerdì, anche se non aveva interessato proprio tutti i titoli, ad esempio il Banco Popolare aveva perso pesantemente anche venerdì, ma che ha interessato oggi un po' tutta l'Europa. Sul Banco Popolare però diciamo, Andrea, che c'è anche una notizia vera e propria, perché insomma Saviotti ha annunciato durante l'assemblea dei conti più che buoni, no? Sì, certamente il voto dell'Assemblea a favore del bond convertibile da 1 miliardo che sarà lanciato nei prossimi giorni ha permesso di terminare il periodo di depressione del titolo. L'indicazione dell'amministratore delegato che tu ricordavi è stata positiva. Saviotti ha detto ci sarà lo spazio per distribuire un dividendo, anche se l'entità sarà probabilmente limitata. Su questo il mercato tornato a ricoprirsi sul Banco Popolare, è stata la migliore degli istituti italiani, che ha fatto più 4,1% tra gli altri istituti. Bene ancora Unicredit, che già da qualche seduta sta recuperando terreno, oggi anche Goldman Sachs l'ha inserita nella lista dei preferiti. Bene anche Intesa San Paolo, più 1,5%, l'attesa ormai che si è creata è per l'ufficializzazione da parte dei consigli degli organi sociali, quindi consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza dell'avvio dell'IPO, quindi della quotazione in borsa di Banca Fideuram, che è interamente controllata da Intesa San Paolo, e quindi dei benefici che questo potrebbe avere sui conti di Intesa. Fiat e Telecom, lo dico, anche se peggio titolo Tenaris meno 2,6, poi Bulgari meno 1,3, Finmeccanica ancora soffre meno 1%, Fiat meno 0,90, Mediobanca meno 0,80, l'Automatica meno 0,6, Ubi meno 0,4, Telecom meno 0,4, Fiat e Telecom. Sì, per quanto riguarda Fiat, certamente oggi una giornata non troppo brillante da parte del settore auto. Come tu ricordavi, tra pochi minuti saranno diffuse le immatricolazioni italiane, ma diciamo che anche in Europa il comparto auto, che aveva ben realizzato delle buoni rialzi nella giornata di venerdì, oggi è tornato un po' ad essere sottotono. Per quanto riguarda Telecom invece, dopo buone sedute di rialzo, soprattutto con il mercato che guardava all'evoluzione nell'azionariato e quindi a questa possibile presa di posizione diciamo più forte su Telecom Italia per quanto riguarda da parte dell'azionista telefonica, il mercato oggi ha corretto, giornata di transizione su questo settore, anche se su questo titolo, anche se ci si aspetta nei prossimi giorni, qualcuno dice mercoledì, l'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Scajola e i vertici di Telecom Italia, proprio per parlare di strategie e anche la questione azionariato certamente. Beh, soprattutto cioè la presenza degli spagnoli o meno. Miglior titolo set pagine gialle, più 13%, novità sì o no? Non ci sono novità, anche se il mercato insomma dopo il lancio del bond, quindi dopo un certo aggiustamento della situazione finanziaria di Seat, incomincia a ragionare sulle prossime mosse degli azionisti di riferimento di Seat, che sono 3 fondi di private equity. Insomma, qualcuno pensa anche che i prezzi siano buoni. Inizia a comprare Vivendi meno 9,2, Danone meno 6,1, i peggiori titoli. Bene anche Terna Energia più 13%, Pramac più 11,8%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Ci colleghiamo subito con gli Stati Uniti, dove c'è in collegamento il corrispondente su 24 ore Mario Platero, anche perché diverse le dichiarazioni del presidente Barack Obama nel presentare la sua legge finanziaria, e poi parleremo di potere d'acquisto degli italiani, quello che l'Istat insomma ha scoperto. Allora, si diceva del presidente Barack Obama che nell'annunciare una legge finanziaria enorme, perché insomma si chiama budget, non si chiama finanziaria, ma vale 3.800 miliardi, perché c'è un deficit che toccherà la cifra astronomica quest'anno di 1.600 miliardi e entrate per 800 miliardi. Ci sono stati anche dei commenti abbastanza significativi sulla situazione che Obama ha trovato. Allora, se Mario Platero è d'accordo, io farei sentire un Barack Obama di poco fa, appena tradotto, e poi vediamo anche l'analisi di Mario Platero. Sentiamo Barack Obama sulla, diciamo, l'architettura di questa legge finanziaria. The budget includes new tax cuts for people who invest in small businesses, tax credits for small businesses that hire new workers, investments that will create jobs repairing roads and bridges, and tax breaks for retrofitting homes to save energy. Allora, la finanziaria, ha detto poco fa Barack Obama, include nuovi tagli alle tasse per chi investe nelle piccole aziende, sgravi fiscali per chi assume, investimenti che permetteranno la creazione di nuovi posti di lavoro nelle infrastrutture e benefici fiscali per chi adotta formule di risparmio energetico. E ha posto poi l'accento proprio sul fatto che l'amministrazione Obama punti sulle fonti rinnovabili, e poi un congelamento delle spese per 3 anni che non toccherà però le spese di sicurezza nazionale, la social security e l'assistenza sanitaria per gli anziani. And it won't apply to our national security, including benefits for veterans. Allora, Mario Platero, finanziaria enorme, già lo sapevamo, 3.800 miliardi di dollari, 1.800 miliardi di 1.600 miliardi di deficit, con un carico fiscale che va a aumentare per chi guadagna più di 250 mila dollari l'anno? Sì, allora diciamo che questa è una finanziaria di cui grosso modo avevamo alcune idee, perché il presidente Obama già dalla settimana scorsa col discorso sullo Stato dell'Unione aveva cominciato ad anticipare alcuni dei suoi progetti. Il problema è che questa legge finanziaria riguarda l'anno fiscale 2011 e dunque comincerà a partire da ottobre. Nel 2010 scadono effettivamente i tagli fiscali concordati dal presidente Bush con il Congresso, un programma di tagli fiscali che doveva durare 10 anni, e dunque scadono alla fine del 2010. Vi saranno probabilmente anche altre misure di incrementi fiscali, riguarderanno appunto l'anno prossimo. Il problema è che Obama non riesce a tenere sotto controllo la spesa. È vero che ha promesso tagli alle spese discrezionarie, e quindi un congelamento di 3 anni su queste spese discrezionarie, che nel loro insieme sono 1.415 miliardi di dollari, quindi quasi la metà del bilancio. Il problema è che di queste spese discrezionarie, come ricordavi tu, molte saranno mantenute, quelle per la sicurezza interna, quelle per il Medicare, per il Medicaid, l'assistenza agli anziani e così via, così via. Dunque, alla fine il risparmio netto sarà un risparmio di 25 miliardi di dollari all'anno, e tu capisci che con un disavanzo di 1.300, tra l'altro dai 1.600 miliardi la speranza è di avere una proiezione invece di 1.300 miliardi, quindi di scendere dal 10,6% del PIL che era nel 2010, di scendere all'8,3% del PIL, che resta comunque una cifra enorme. Però tu capisci che 25 miliardi di dollari su 1.300 è come una goccia che si perde nel mare. Dunque i mercati sono stati preoccupati negli ultimi giorni proprio per questo, perché ci si rendeva conto che una serie di manovre coordinate che l'amministrazione aveva messo in cantiere per far fronte alla crisi, e cioè una politica monetaria molto strutturata che teneva i tassi in termini reali addirittura al di sotto dello zero, il pacchetto di stimolo di 787 miliardi di dollari che però si esaurirà a settembre, la politica monetaria che più di così non può fare, questo congelamento che anche lui più di tanto non può fare, la domanda è che cosa succede se a un certo punto l'economia non si riprende per conto suo. Certo. E per questo abbiamo visto queste difficoltà del mercato. Ecco, oggi però abbiamo avuto un dato piuttosto interessante che secondo me ha restituito un po' di ottimismo al mercato, e cioè che il settore manifatturiero, ci sono state delle rilevazioni statistiche che hanno dimostrato che gli ordini alle fabbriche sono aumentati in un indice che è arrivato al 58,4 in gennaio, che è il miglior risultato dall'agosto del 2004. In dicembre l'indice era al 54,9. Ecco, questo è un dato di oggi che così ci dà qualche barlume di speranza sul fatto che dopo una serie di dati deludenti su una ripresa autonoma dell'economia al di là delle misure di stimolo, forse qualche cosa si sta mettendo in moto, e infatti il mercato è al rialzo adesso di una settantina di punti. Mario Petero, grazie, anche perché hai ripercorso quelli che sono i problemi nel breve termine dell'amministrazione Obama, cioè reperire risorse per il costo che ha avuto salvare le banche dalla crisi. Ecco perché poi c'è un braccio di ferro in corso anche con l'amministrazione Obama per avere nuove regole per le banche cosiddette too big to fail, per cui troppo grandi per fallire, perché poi te le devi salvare per forza. E tra l'altro Barack Obama ha detto: noi veniamo da un decennio di spese sregolate, qui la critica era l'amministrazione Bush, spese militari ma non solo, ecco perché abbiamo un pesante debito. E hai ricordato anche quali sia il problema in questo momento. Già da Davos tutti hanno sottolineato che questa ripresa, l'aggettivo più utilizzato è stato fragile, fragilissima ripresa, per cui non convincente. Grazie Mario Patero, in collegamento con noi dagli Stati Uniti, da New York. Volete i dati auto? Sono appena usciti. Allora, è volato letteralmente il mercato delle immatricolazioni auto a gennaio, più 30%. Quindi, nonostante gli incentivi alla rottamazione siano scaduti a dicembre 2009, vanno bene le immatricolazioni di auto. Forte incremento legato soprattutto alla quantità, però attenzione, di ordini del 2009 ancora inevasi, e qui ci potrebbe essere un dato leggermente diverso da quello che appare ufficialmente, perché le vetture ordinate entro il 31 dicembre 2009 potevano essere immatricolate fino al 31 marzo 2010. Bene il gruppo Fiat, più 30,3%, con una quota che sale al 32% contro il 31,9%. Le informazioni sul traffico, e poi ultima parte con il presidente dell'Istat. Ci ha incuriosito una sua dichiarazione. Ecco perché l'Istat ha capito ed è convinta che il potere d'acquisto degli italiani sia calato, dati inequivocabili. E allora vediamo di capire con l'Istat che cosa esce come fotografia statistica del potere d'acquisto degli italiani nella settimana in cui, rielaborando i dati dell'Agenzia delle Entrate, scopriamo, come già immaginavamo, ma solo lo 0,3% degli italiani dichiara più di 150.000 euro lordi l'anno, e l'80% di questi è o pensionato o lavoratore dipendente. Allora, ultima parte di Focus Economia, e si diceva, avete letto sui giornali in questi giorni, anche nel fine settimana, le elaborazioni dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni del 2009, reddito medio 19.000 euro, dal lavoratore dipendente 21.000 euro lordi, artigiani e commercianti 17.000 euro, alberghi, ristoranti 13.000, 18.000 commercianti meccanici, 19.000 gli agenti immobiliari, il reddito dei professionisti a 44.000 euro e poi i pensionati di 17.000 euro. La cosa che insomma lascia più perplessi non è tanto vedere 10 milioni di italiani che denunciano redditi inferiori ai 6.000 euro lordi l'anno, insomma stiamo parlando di una soglia sotto la soglia di povertà, 10 milioni ci sembrano un po' tantini, dovremmo avere la gente le file davanti ai supermercati. 15.670 euro è l'imponibile medio in Italia, proprio la media, ecco perché poi si hanno 10 milioni di italiani sotto i 6.000 euro. E quello che ci lascia sempre perplesso è vedere che chi è sopra i 150.000 euro lordi l'anno sono lo 0,3% del totale, ma di cui sono 150.000 persone. E già sono poche, se consideriamo che ci sono 200.000 auto sopra i 50.000 euro immatricolate ogni anno in Italia, 1 milione quelle circolanti, le barche oltre 10 metri sono 94.000, le barche sotto i 10 metri sono 500.000, insomma, dire che ci sono solo 150.000 italiani che guadagnano più di 150.000 euro lordi l'anno è un po' pochino, ma soprattutto di questi 150.000, e qui non me ne abbiano i lavoratori autonomi, 130.000 sono o pensionati o dipendenti, per cui sono solo 20.000 lavoratori autonomi che dichiarano più di 150.000 euro lordi l'anno. Se andiamo sopra i 200.000 euro lordi scendiamo a 76.000 persone, di cui praticamente i lavoratori autonomi sopra i 200.000 euro lordi l'anno sono in tutta Italia 10.000. Va bene tutto, ma insomma. Allora, questo è diciamo lo squilibrio delle nostre dichiarazioni dei redditi e l'alto tasso di evasione del nostro paese, senza voler penalizzare nessuno, però insomma sono dati oggettivamente inaccettabili. Nello stesso tempo si lamenta anche una perdita del potere d'acquisto e soprattutto un andamento dei consumi non certo soddisfacente. È chiaro che ci siano due paesi, quello che appare dalla dichiarazione dei redditi da un lato e quello che invece appare nei consumi, ma resta alta la polemica sul potere d'acquisto del lavoro dipendente e non solo. E di oggi il dato su quanto ci si metteva anni fa a comprare una casa e quanto ci si mette adesso. Oggi servono in media 12 anni di stipendio per acquistare un bilocale da 60 metri quadri, 10 anni fa bastavano 7 anni e mezzo. A Milano si è passati da quasi 8 anni a 12 anni, a Roma da 8 anni a 14 anni, a Napoli da 7 anni a 13 anni e mezzo. L'Istat oggi diffonde il dato sulle retribuzioni nel 2009, sono sopra l'inflazione più 3%. Il presidente dell'Istat è in collegamento con noi, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Allora, più 3% vuol dire sopra l'inflazione. Lei sa già che la polemica, che vedo anche nei nostri sms 349-238-6666, ma voi l'inflazione non la sapete misurare, lo dico come una battuta, perché già ai tempi della lira euro non vi siete resi conto di come andasse il costo della vita. Allora, prima domanda, la misurate o no? Seconda domanda, come fate a vedere anche in maniera statistica, e lei lo ha dichiarato questo, che il potere d'acquisto in Italia è effettivamente calato, e non diciamo con varie teorie, ma proprio guardando una misura molto semplice. Prego, Presidente. Noi rileviamo ogni mese circa 400.000 prezzi in tutta Italia, anzi sono centinaia di rilevatori dei comuni che lavorano in tutta Italia per rilevare questi 400.000 prezzi, secondo norme che sono stabilite a livello internazionale, con pesi che vengono aggiornati ogni anno sulla base dei consumi delle famiglie e così via. Tutti questi dati sono ben noti e ciononostante resta una discrepanza tra percezione e dati statistici. Ora, ricorderà che anni fa si parlava di un'inflazione del 20% all'anno, 30% all'anno. Ebbene, in realtà per avere una situazione drammatica per tantissime famiglie non serve scomodare questi grandissimi numeri. Come abbiamo mostrato recentemente, tra il 2009 e il 2002, quindi in 7 anni, il potere d'acquisto reale delle famiglie, quindi al netto dell'inflazione, è cresciuto solo dell'1,3%. Vuol dire che per chi guadagna circa 1.500 euro al mese sono 20 euro di crescita reale, in media naturalmente. Ma la popolazione in questi anni è cresciuta del 4,6%. Quindi vuol dire che il reddito reale, il potere d'acquisto reale pro capite per persona è diminuito del 3,3% in 7 anni, e questo fa un discreto pacchetto di soldi che in qualche modo gli italiani non hanno più a disposizione. Quindi voi, dividendo, cioè il numero di persone che compongono i nuclei familiari con il potere, con la disponibilità delle famiglie, dite si arriva a un meno 3,3% come potere d'acquisto della singola su individuo. Su 7 anni. Meno 3,3% totale. Ora, sui 7 se anni. Vediamo quest'anno, ecco, sembra un po' poco. Ecco, e qui voglio arrivare al secondo aspetto della domanda. Cioè, se io vado in giro a raccontare che da quando è arrivato l'euro a adesso tu hai perso in termini reali 200 euro al mese, il 3% come famiglia di 4 persone, non sono così pochi. Qui volevo arrivare, Presidente Giovannini, perché dire 3,3% sembra dire, ma in realtà abbiamo perso il 50%, cioè la vulgata un po' da bar è questa, però possiamo chiarire perché il 3,3% è un dato di assoluto rispetto, purtroppo, nella perdita di potere reale d'acquisto? Quando si pensava, molti pensavano che l'inflazione fosse del 20-30%, questo voleva dire immaginare una caduta del reddito reale dell'ordine del 17-25%. Ora, vediamo che nel mondo quest'anno c'è una recessione senza precedenti, perché il reddito cala negli Stati Uniti di circa il 2,5%, in Europa di circa il 5%. E vediamo quale sconquasso una caduta di questa grandezza può fare per le famiglie, per migliaia di lavoratori e così via. Ecco che queste cifre, che sembrano piccole, in realtà fanno una grande differenza, anche perché queste sono cifre medie e, come lei ha mostrato prima usando i dati sulle dichiarazioni, c'è un divario enorme tra le dichiarazioni più ricche e quelle meno ricche, e le nostre rilevazioni mostrano chiaramente che in questi 10 anni la distribuzione del reddito è andata a sfavore dei più poveri ma a favore dei più ricchi. Oh, anche qui parla l'Istat, non parla la politica. Voi vedete statisticamente non solo che c'è stato un impoverimento del potere d'acquisto reale, e lo dico perché poi questo tema viene sempre tirato per la giacca a seconda di chi sta al governo e chi sta all'opposizione, ma è del 3,3%, anche se può sembrare poco, detto così è molto. Ma vedete anche che in questi anni, dall'euro in poi, c'è stata una redistribuzione del reddito a favore di chi già aveva di più, lo dico senza nessun tipo di retorica e demagogia, e a sfavore di chi già guadagnava di meno? Sì, e nei dati che abbiamo mostrato recentemente in una discussione appunto su come si misura il benessere dei paesi e così via, se guardiamo tra il 2002 e il 2008, la quota di reddito che non è andata alle famiglie, e quindi al netto della parte di reddito che appunto è finita direttamente alle famiglie, si vede che c'è stato un forte aumento dei redditi che sono andati all'estero, e quindi sono profitti di imprese multinazionali, ma anche naturalmente rimesse degli immigrati, visto che la popolazione straniera è cresciuta molto. La quota che è andata alle imprese finanziarie, e quindi banche e società finanziarie, è cresciuta molto. Invece è diminuita la quota che è andata alle imprese medio-grandi, quelle che in qualche modo poi fanno il tessuto produttivo italiano, ed è cresciuta la quota che è andata alle piccolissime imprese, cioè alle imprese con meno di 5 addetti. Allora, Presidente dell'Istat, Giovannini, io ho un'ultima domanda per lei, che è la domanda delle domande, e cioè in un paese in cui, come ogni anno, però dobbiamo ridarla ogni anno, scopriamo che solo 149.000 italiani dichiarano più di 150.000 euro lordi, solo 80.000 dichiarano più di 200.000, che nella stragrande maggioranza sono tutti pensionati o lavoratori dipendenti, e che insomma ci sono 10 milioni di italiani che dichiarano di guadagnare meno di 6.000 euro lordi l'anno, una cosa che veramente mi lascia basito, non perché non ci siano, ma perché vorrebbe dire avere un altro paese. Non è che anche le statistiche che voi maneggiate sono tutte sballate, mi passi il termine, cioè quando c'è una tale distanza tra la realtà dei fatti che noi vediamo e la realtà fiscale o la lealtà fiscale? Beh, l'Istat non è che somma soltanto i numeri delle dichiarazioni, fa le cosiddette integrazioni per l'economia sommersa, e in media in Italia noi diamo un valore di circa il 16-18% a secondo degli anni di economia sommersa. Ora, questo numero può sembrare basso, ma non dobbiamo scordare che in alcuni settori, la pubblica amministrazione, le grandi banche, le grandi imprese, l'energia, non è che queste società o lo Stato assuma in nero. Quindi in questi settori l'economia sommersa è per definizione zero. Quindi voi già fate entrare dentro l'economia sommersa con una quota significativa. In una battuta, la differenza tra inflazione... Dire quindi che in alcuni settori, come il commercio e le costruzioni, la quota di economia sommersa è del 50-60%. 50-60%, giusto. In una battuta, l'inflazione l'abbiamo vista praticamente ai minimi storici, ma l'inflazione dei beni di maggior consumo, quella che avete introdotta per capire come vanno poi i beni alimentari e altri generi? Nel 2009 hanno avuto una crescita abbastanza contenuta, perché invece proprio nell'anno precedente era cresciuta moltissimo. Queste sono delle fluttuazioni normali, pensiamo a tutto il prezzo dell'energia, la benzina e così via. E la preoccupazione è che in realtà nel 2010 l'inflazione possa recuperare, e mentre i salari, che quest'anno hanno beneficiato di molti aumenti contrattuali, possano invece di nuovo arrancare. Grazie al Presidente dell'Istat Enrico Giovannini, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, siamo veramente in chiusura, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.